Devi credermi se dico c'è qualcuno in casa. Che indossa la mia roba, cambia testi che scrivo, poi svuota il frigo. E se domani ti ritrovi con qualcuno in casa, che non incontri mai, ti chiederai anche tu ma con chi cazzo vivo. Vale tutto come tutto il contrario. Fallo come un fallo volontario. Un volo in faccia all'avversario. Avvezzo a fare il pezzo. Il puzzo, il pozzo. Il pazzo, il pizzo. Vuoi un indizio, un ingizio? Ti faccio uno schizzo. Due righe parallele che viaggiano all'infinito. Nello spazio vuoto senza mai toccarsi l'una con l'altra. Come la figa e Marco Carta. Devi credermi se dico c'è qualcuno in casa. Che indossa la mia roba, cambia testi che scrivo, poi svuota il frigo. E se domani ti ritrovi con qualcuno in casa, che non incontri mai, ti chiederai che tu ma con chi cazzo vivo. Autodepressiva anziché antidepress, potrei essere più comprensivo. Solo con me, solo commenti, solo commercio, solo profitto. Al momento perfetto approfitto. Tanto vale dirlo, dirlo vale tanto. Cantando bennato, guidando bendato mi schianto. Ubriacami il tanto, mi intanto che svuoto il frigo. Sbatto la scopa e chiudo la seconda strofa. Devi credermi se dico c'è qualcuno in casa. Che indossa la mia roba, cambia testi che scrivo, poi svuota il frigo. E se domani ti ritrovi con qualcuno in casa, che non incontri mai, ti chiederai anche tu ma con chi cazzo vivo. Devi credermi quando dico che non devi credermi. Te l'ho mai detto, mi piacerebbe saper cantare tipo con un gruppetto rock. Rispondi seriamente, te l'ho mai detto? No. Non voglio fare la fine di quello che dice, potevo farlo ma non l'ho fatto per questo scenario osceno. Non voglio fare come chi va in rehab e ritorna mezzo scemo. Devi credermi se dico c'è qualcuno in casa, che indossa la mia roba, cambia testi che scrivo, poi svuota il frigo. E se domani ti ritrovi con qualcuno in casa, che non incontri mai, ti chiederai anche tu ma con chi cazzo vivo. Senti, volevamo mettere una canzone scelta da te che in questo in beh, questo è una canzone caso, molto importante perché è la canzone da cui io ho preso ispirazione e la citazione appunto di Tranne te. Tranne te inizia con questa vocina di questo alieno che mi fa: oh Fibra, ma perché non metti qualcosa per farci ballare? Beh, io l'ho preso, l'ho copiato diciamo da una canzone di Neffa, dell'ultimo lavoro rap che fece il grande Neffa, che si chiamava Funk A1 e faceva così. Quale circo che ci mazza la hit voodoo, è fan pa' you, è fan pa' you. E si avanza, si prende, si spinge mo, è funky do, è funky do. Viene via come viene a chi, ecco, viene da sé. Il pezzo con la vocina, è fan che c'è, con ste lì, c'è il grande Neffa. 1900? Non lo so, cos'è? 99? È funky do. Sì, era 99. Cosa? Ma che è sta merda? Eccola. Beh, in effetti. Perché non cacci un po' di sapido rap? Ah, sapido rap. Sapido rap. Sapido rap è il rap futuristico. È il rap futuristico del 99.